Letture di Radio 24. Nei prossimi giorni verranno presentati i risultati di uno studio che attribuisce a Leonardo da Vinci la paternità di una terracotta conservata al Victoria and Albert Museum di Londra. Sulle pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, la storia del rocambolesco ritrovamento e le motivazioni che fanno pensare che si tratti davvero di un'opera dell'artista fiorentino. In un passo delle vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori, Giorgio Vasari parla della tecnica sperimentata da Leonardo da Vinci quando era ancora nella bottega fiorentina del Verrocchio suo maestro. Leonardo era solito fare modelli di figure in terra e addosso a quelle metteva cenci molli interrati e poi con pazienza si metteva a ritrargli sopra certe tele mollissime e li lavorava di nero e bianco con la punta del pennello, che era cosa meravigliosa. Il Verrocchio dovette impartire al geniale discepolo i primi rudimenti della pittura, ma anche della scultura. Benché Leonardo ritenesse la pittura superiore alla scultura, racconta di essersi adoperato tanto nell'una che nell'altra arte, in un medesimo grado, cioè con pari diligenza e risultato. Poco dopo il 1480, in procinto di partire per Milano, dove avrebbe prestato servizio alla corte del Moro, l'idea di realizzare il monumento equestre di Francesco Sforza cominciava a prendere consistenza e forma. Poi Leonardo giunse sino al penultimo stadio, portando a termine il modello in argilla o stucco, ma non concluse il lavoro che avrebbe dovuto prevedere la fusione in bronzo. Il colosso equino doveva essere di oltre 7 metri di altezza e il peso della terra di fusione avvicinarsi alle 50 tonnellate. Di questa superba impresa rimangono alcuni disegni, sparsi in vari codici leonardeschi, dai quali si desume che il primo pensiero prevedeva un cavallo impennato. In seguito Leonardo aveva ripiegato, forse dietro suggerimento del Moro, su un cavallone al passo, solenne, tornito e monumentale per vocazione. La scultura, celebrata in antico da molti eruditi, secondo Sabba da Castiglione impegnò l'autore per 16 anni continui, ma il modello di stucco, già nel 1499, era stato fatto bersaglio dei balestrieri guasconi entrati a Milano con le truppe di Luigi XII, quando ancora il grandioso quadrupede si stagliava in un cortile del castello di Porta Giovia. Tuttavia, nel 1501, il duca di Ferrara Ercole I d'Este lo aveva richiesto al cardinale Rohan per farlo copiare. Più tardi andò distrutto. Di tutte le opere di scultura leonardesche, più o meno dettagliatamente citate dalle fonti antiche, non se n'è identificata una. Ma visto che la pratica espletata da Leonardo nello scolpire e plasmare la terracotta, che doveva risultargli più congeniale del marmo per i suoi effetti pittorici, fu assidua, è impensabile che nemmeno un esempio di mano del grande maestro non sia sopravvissuto alle soppressioni. La caccia a una scultura di Leonardo dura da tempo e ha visto impegnati studiosi di inossidabile serietà e pervicacia. Tra gli scomparsi, Sir John Pope Hennessy, illuminato pioniere delle ricerche sul Rinascimento italiano, nonché direttore del Victoria and Albert Museum di Londra, Kenneth Clark, W. R. Valentiner. Le fonti antiche su Leonardo scultore ricordano teste di femmine che ridono, teste di putti, un bambino Gesù in Creta che fu di proprietà del cardinale Federigo Borromeo, probabile modelletto della testa di Gesù, del quadro con Sant'Anna e forse da identificarsi con la testicciola di terra di un Cristo mentre che era fanciullo, la quale, nel Cinquecento, era presso il pittore e trattista milanese Giovan Paolo Lomazzo. Teste di vecchi e cavallini in bronzo, come è quello del Museo di Budapest, che molti ritengono autografo e possibile prototipo del monumento a Gian Giacomo Trivulzio, che però non fu mai compiuto. Anche l'insieme delle sculture che oggi gli esperti attribuiscono a Leonardo è ben assortito, ma non ne esiste una sulla quale i massimi calibri dell'esegesi leonardesca siano concordi. Ciò però non deve suscitare né meraviglia né tantomeno scandalo, perché in materia d'arte i dispareri fan parte integrante del mestiere. In un momento arroventato come l'attuale da altisonanti attribuzioni respinte, avanzarne una nuova a Leonardo scultore è un atto a dir poco di coraggio. Patrocinatore della proposta è un bravo studioso italiano, Edoardo Villata, che martedì prossimo, nel corso dell'importante convegno sulla terracotta del 400, diretto da Maria Grazia Albertini Ottolenghi, dell'Università Cattolica di Milano, farà il nome di Leonardo da Vinci per attribuire una paternità a un bellissimo e un po' negletto San Girolamo in meditazione, conservato nei depositi del Victoria and Albert Museum. La statua, a tutto tondo, misura circa 50 centimetri di altezza, ma il suo impianto grandioso la direbbe maggiore, elemento che di per sé depone a favore di un'eccellente fattura, peraltro conclamata da ogni particolare. La storia di questa terracotta segue quella di molte opere d'arte che appartenevano alla sterminata raccolta di Giovan Petro Campana, marchese di Calvelli, direttore, verso la metà dell'Ottocento, del Monte di Pietà di Roma, archeologo e collezionista tanto sfrenato negli acquisti e nel tenore di vita personale da finire in miseria e in carcere con l'accusa di peculato e abuso d'ufficio. Nel 1854 la sua collezione era stimata quasi 1 milione di scudi. Per pagare i debiti fu dispersa in vari tronconi, perché non si era trovato nessuno disposto a rilevarla in blocco. Una parte fu acquistata dallo zar, un'altra da Napoleone III, che, per uno strano caso della sorte, alcuni anni prima era riuscito a fuggire di prigione con l'aiuto di tale signora Crawford, futura suocera del Campana. Il lotto, dove si conservava anche il San Girolamo, venne comperato dal South Kensington Museum di Londra, odierno Victoria and Albert. Ma prima di passare al Campana, la magnifica terracotta era appartenuta a Ottavio Gigli, pedagogo, patriota e collezionista fiorentino, fondatore di asili e del periodico cattolico L'Artigianello. Il San Girolamo, attribuito per lungo tempo al Verrocchio, nel 1964 fu declassato da Sir John Pope Hennessy, opera di un seguace del Verrocchio degli inizi del Cinquecento, e poi ritenuta di uno scultore fiorentino, Giovan Francesco Rustici, che molto aveva attinto da Leonardo. Rustici è l'autore dello spettacolare gruppo bronzeo con la predica del Battista all'esterno del battistero di San Giovanni a Firenze. Attribuendo la terracotta a Leonardo in persona, Villata si scontra con l'autorità di Pope Hennessy e di alcuni insigni studiosi, quale Olga Raggio, per non dire dei viventi. Ma quali sono le ragioni che legittimano l'ipotesi attributiva di Edoardo Villata? Innanzitutto, la qualità del San Girolamo, che è elevatissima, come vediamo nell'energia di sintesi plastica racchiusa nell'organicità della posa del vecchio dottore della Chiesa che nella destra regge il libro e con la sinistra si accarezza la barba. Si coglie sul volto del santo filosofo un sorriso appena accennato che denota il compiaciuto raggiungimento della conoscenza delle verità eterne e che affiora nell'intensità della concentrazione e dell'espressione. Ma per vibrare il nome di Leonardo, quel che più conta sono i molteplici riferimenti al suo stile. Forse il più sorprendente è la mano destra di San Girolamo, affusolata e un po' irrigidita, che richiama subito quella della Dama dell'Ermellino, la cui mano, secondo una recente ipotesi, non venne ritratta dal vivo, bensì da un modello plastico. Poi entrano in gioco, more solito, i panneggi leonardeschi, molto vicini a quelli del mantello indossato da San Girolamo. Da ultimo, Villata rimarca giustamente che nella terracotta di Londra non vi è il benché minimo cenno di influenze michelangiolesche, che in qualunque scultore attivo a Firenze dopo il 1500 sarebbero immancabili. Questa attribuzione, audace ma non peregrina, scatenerà discussioni e dissensi, ma anche consensi, e il fatto che venga pubblicata in grande evidenza sul prossimo numero della Raccolta Vinciana, prestigioso periodico biennale dedicato ai più approfonditi studi leonardeschi, è un fatto di indubbio conforto. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Marco Bona Castellotti dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Se lo spettatore non può andare al cinema perché le sale cinematografiche non esistono, è il cinema che deve andare dallo spettatore. Ci aveva già pensato il cartoonist italo-argentino Quirino Cristiani negli anni 20 del secolo scorso. Oggi un'associazione bolognese porta al cinema On the Road tra le popolazioni africane. La folgorazione gli è venuta nel Natale 2001, dopo un film in un cinema coloniale di Mayang, in Madagascar. Vedere 1500 persone assiepate per un film di Kung Fu gli ha fatto pensare di replicare lì quello che avviene d'estate in molti paesi d'Italia. Oggi Elisabetta Antonioni e Nello Ferrieri festeggiano i 10 anni della loro Cinemovel, un moderno gruppo di saltimbanchi che porta il cinema dove non c'è mai stato. L'associazione bolognese nell'agosto del 2001 è partita per il Mozambico con una truppa di 24 persone, un generatore, uno schermo 6x4, mixer, casse, proiettore e da Maputo ha attraversato 30 città, proiettando cartoni animati, film di Chaplin musicati da un flautista di strada, La vita è bella, Mission e pellicole di autori mozambicani su temi come AIDS, prostituzione, lavoro. Il progetto africano è portato avanti da uno staff locale formatosi sotto Cinemovel. Al cinema itinerante è stato affiancato un laboratorio sanitario. L'associazione nel frattempo è diventata fondazione. Ne è presidente onorario Ettore Scola. E l'impegno continua. Nel 2007 Elisabetta e Nello hanno organizzato il Caravan du Livre au Film, portando a Ouarzazate, Zagora e Marrakech film e libri sull'AIDS, sulle donne e sul nuovo diritto di famiglia. Ora i due cinefili stanno raccogliendo fondi per portare la loro carovana in India. Il prossimo anno saranno in Senegal con Mboro Film Festival per promuovere il diritto all'istruzione delle bambine. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Rinaldi, Il cinema è mobile, da L'Espresso del 30 settembre.